and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Cos'hai? Cos'hai? Ti sei ingoiato il kazoo? Ma devi tirarlo fuori, non puoi andare avanti così, Poi anche questa cosa di ingoiarsi il kazoo non è bello, cioè se ci pensi è un incidente, è stato un incidente. Vabbè, adesso però se tu facciamo la manovra di Heimlich, girati un attimo, ecco, fai così, guarda, aspetta, bravo, rilassati, 3, 2, 1, ecco. Un saluto da Drago, grazie capo. Ecco. Mi ha liberato da questa maledizione del kazoo in bocca, che sì. Sai, non è mai piacevole. No. Vabbè, no. Dipende un po' anche. Vai avanti, no. Su non ti intortare. Cominciamo qua, con un anniversario. Ti piace? Vedi, sì. 44 anni fa, l'11 marzo 1967, usciva il primo 45 giri dei Pink Floyd, che si chiamava Arnold Lane. Cosa c'entra con l'asilo, però? C'entra, perché l'autore di quel pezzo, Syd Barrett, sai che vita ha fatto per più di 30 anni? Sì, è stato chiuso in casa con la mamma e regredito a eterno bambinone. Ma ce n'è un altro, Brian Wilson dei Beach Boys. Ecco, più o meno uguale. Ma non è tanto un fenomeno di regressione culturale, no, quanto di abuso di sostanze allucinogene che ti rincoglioniscono. Sì, però anche la regressione culturale, secondo me, ha a che fare con le droghe allucinogene. E ci sono teorie del complotto, caro K, che sostengono che i governi mettano LSD nell'acqua potabile da anni e anni. Ma per far cosa? Per creare un'opinione pubblica distratta, indifferente, regredita, appunto. L'acqua potabile la usano tutti, anche quelli che stanno al governo, anche loro, quindi sono strafatti di LSD tutti quanti. Avevi qualche dubbio? Asilo nido. Allora, qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. E ora, bambini, ricreazione! Ricreazione? Ma dov'è il bambino Alberto? Sarà sull'albero, forse. No, non c'è. Guarda, bambino Alberto! Ah, eccolo! Esce dalla mensa adesso, guarda. Bambino Alberto! Ciao! Ma cosa stai mangiando? E finocchi cotti, sono appena uscito dalla mensa. Ma a quest'ora non è un po' tardi, scusa? Gli altri bambini stanno giocando da un po', tu sei lì che mangi. Ma io sono nel banco dei lenti, Nel? Nel banco dei lenti! Ma cos'è? Il banco dei lenti è quello dove mangiano quelli che mangiano lenti, no? Tipo me. Ah, ma è solo per il mangiare o è il banco dei lenti in generale, cioè lenti di comprendonio? Ma io non lo so, io mangio lento, poi non so se sono lento di manicomio. Vabbè, ma come funziona? Cioè, ma cosa? Il banco dei lenti. Stiamo parlando del banco dei lenti. Ma non c'è niente che deve funzionare, chissà che cosa. Siamo sempre i soliti 5 o 6 che mangiamo lenti, no? Ma io mangio lento perché mi fanno schifo i finocchi cotti, no? Non perché sono lento. No, certo, tu fai il record. Se mi dessero ketchup e patatine, allora ti faccio vedere io altro che lento. Ma tu lo vivi come un'umiliazione, il fatto di stare nel banco dei lenti? Un po' sì. Cioè, non è mica bello sentirsi messi da parte, no? Però fanno male a fare queste cose, il banco dei lenti, vedi? Che poi, io sono già uno che di per sé si mette in disparte da solo, no? Sì. Però, insomma, nel banco dei lenti... lì, tutti gli altri bambini ci prendono in giro, immagino. Perché voi ormai non vi ricordate più perché siete vecchissimi, ma guarda, da bambini si può essere cattivi, Sì, vabbè, un po' mi ricordo. Quindi, per i bambini, qualsiasi scusa può essere buona per prendere in giro gli altri. Sì. Figuratevi noi, il banco dei lenti. Sì, vabbè, però bambino al caldo. La L sulla fronte, sai, come loser, lento, L. È lento. Lento, loser. Ce l'hai la L tu? Bella, fai la L col pollice e l'indice. Bravo, te la metti, ecco, in fronte, ecco. Così, ecco, così va in giro marchiato proprio. Così, anche ecco, quelle che non sono in messa sanno. Esatto, ecco. Esatto, però bambino Al-Qaeda, puoi sempre velocizzare la tua manducazione e risolvere così la questione. Mangia più in fretta. Mangia più in fretta. Ma non riesco, i finocchi cotti. Cioè, io i finocchi cotti non riesco a masticarli. E cosa fai? Lì, praticamente, non dico che li succhio, ma... li faccio scendere lentamente. Ma come? No, ma... devo tenerli quasi intossi finché non arrivano giù, perché non devo sentire il sapore, no? Ah, ho capito. Sì, certo. Però me li faccio sciogliere in bocca. Ma per perché forza masticarli che sei... mi fa troppo schifo. Ho capito, ma allora così sei lento, per forza, no? Tu masticali, vedrai che torni subito nel banco dei veloci. Ma non c'è il banco dei veloci. Ci sono i banchi dei normali e il banco dei lenti, no? E io sto in quello dei lenti. Certo, che queste però sono umiliazioni che per il povero bambino all'ingrosso poi si svilupperanno. Sì, all'ingresso, bambino all'ingresso, alla sua maturità all'incontrario, bambino all'incontrario, bambino alla coque, bambino all'inferno. Ma basta, io ho già detto che io ho un solo nome, che è Alberto, capito? A-L-B-E-R-T-O. Nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Comunque c'è grande curiosità intorno al live, ci sono le mail che ci arrivano, ci chiedono infatti di cosa tratterà, come sarà anche, questo live. C'è anche gente che chiede quanto dura, perché teme che duri solo 10 minuti, uno fa tutta la storia, no? Arriva fin qui, arriva dalla provincia magari, dal parcheggio, eccetera, arriva qui 10 minuti a casa. Ma no, altro che 10 minuti, dura circa 3 ore lo show, con 2 intervalli, poi ci sono i bis, con l'interazione col pubblico, si arriva comodi, secondo me alle 4 ore, 4 ore e mezza. Ma non è vero, tranquilli. Dai. Perché, scusa, l'avevamo concepito come la tetralogia dei Nibelunghi di Wagner, e quindi 4 serate a Bayreuth, però poi per motivi di budget si fa a Milano qui al 22 marzo, no? Sì, e no, Viale Monterosa, Radio 24, dura un'oretta, dai, e meno male. Perché meno male? Scusa, pensa che bello, 4 serate a Bayreuth. Ma cosa dici? A Bayreuth non capiscono una parola di italiano e ci cacciavano via sassate, dai. Qui invece... meglio a Milano, qui all'asilo Stoppani, nella sede di Radio 24. Beh, comunque dai, mettiamo in scena una puntata risorgimentale, no? Con 2 personaggi minori di quel tempo, che uno è Giovanni Minoli, ma non quello di Correvalanno, di Mixer. Certo Mixer che no. Mixer ce lo ricordo. Lui ormai è, diciamo che... Giovanni Minoli, H, la piccola vedetta lombarda, di Amicisiana Memoria. Quindi lui uno dei protagonisti, L'altro protagonista è l'abate Stoppani. Sì, il grande narratore dell'Italia che fu. Allora, se, che siate all'ascolto in questo momento, che siate all'ascolto in replica, o che siate all'ascolto del podcast, non potete mancare martedì 22 marzo alle 21 per Chiedo Asilo Live.